200 crocchette di patate. Patate, grammi 300, burro, grammi 30, parmigiano grattato, grammi 20, rossi d'uovo numero 2, zucchero un cucchiaino, odore di noce moscata. Le patate, sbucciatele, e se sono grosse, tagliatele in 4 parti e mettetele a bollire in acqua salata per passarle dall'ostaccio asciutte quando saranno cotte ed ancora bollenti. Al passato aggiungete il burro sciolto d'inverno e tutto il resto mescolando. Lasciate che il composto ghiacci bene, dividetelo in 10 o 12 parti e sopra uno strato leggero di farina date loro la forma di rocchetto per ottenere le crocchette. Frullate un uovo e nel medesimo immergetele ad una, panatele e friggetele in olio o lardo, onde servirle per contorno a un fritto di carne o ad un arrosto.